Poi fai una domanda, amico tuo. Registrazione. Don Emilio. Ma l'altra volta stavo chiamando Adriano. Ma no, è sparito. No, come è notte? E domenica no, no, sabato notte, sabato notte. Questo sta salutando, bravo, devi salutare almeno. Andava. La borsa cavolo un po', io mi sto cucinando un po'. Cosa da mangiare, a dopo. E che cosa che fai? Oh, mi arrangio, va. Per me però per gli altri. Non so quando ho la cosa che si lavora, se non mi rimane qui, non so cosa dire. E va, a dopo, va, ciao. Ciao. Tu mi dici, già, mi. Luca, ho toccato l'antenna al supermercato, mi hanno fatto... Mi c'è tutta quanta mollata. Allora. E allora? Mia moglie, se non c'è il mio qua, mi sta portando a vedere che se non perché se non mi sono messa di vera antenna, a tutto punto. No, sono l'alta, l'antenna lì, è alta. Io sto attento, sono per farsi, ne butti tutto. E io che sto attento, solo che le donne... Vogliamo sapere la ragione, fa che qua, fa che fai prima, e dopo ti fai rimandare. Ma te l'abbiamo dovuto mullire, Mari non c'entra niente, basta. No, qua c'è la mia figata, sto successendo perché sto passando dall'altra parte. Ma se avete me lo troncata alle niente, non si è mollata e basta, è solo che per avvistarla bisogna smettere il testo. Aspetta, un attimo, già arrivo subito, aspetta. Ehi! Allora, comprato l'hai? No, comprato l'ho visto. Comunque costa di meno la cosa, media volta. Ah, mi devo visitare la stessa. Due meno. Ecco, ma non si pare che sia la stessa cosa. Va, ma sarà meglio. Hello.